con l'attrice Eleonora Micali per parlare dello spettacolo Una donna fantasiosa, un manattologo in prima nazionale venerdì 13 settembre 2019 a Roma al Teatro Studio Keyros all'interno del Festival Il Teatro che non c'era. Eleonora, ben trovata. Buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, insomma ben trovati pure a voi. Eccoci qua. Ce lo descrivi? Allora, guarda, Una donna fantasiosa, un manottologo è il sequel di Una donna fantasiosa, un monologo. Quindi è un monologo che nasce da un'idea mia, perché sono tutti aneddoti tratti da quanto mi è accaduto, insomma, nella mia vita newyorkese, quindi dal mio arrivo, che è stato il 2017, diciamo, ad oggi. È un testo brillante, un testo che contiene tutte le nuance, tutte le shade, tutte le sfumature dell'animo umano, perché dal brillante si passa anche al thriller, insomma è molto divertente. È un testo che sarà recitato in italiano, c'è anche una parte in inglese, ci sono anche l'incursione anche in vari dialetti, tra cui il siciliano, perché io sono siciliana e quindi c'è, diciamo, anche quello, ma poi si passa al romanesco, napoletano, calabrese, insomma è un testo molto divertente. Sarà questa prima nazionale il 13 alle 21, invece il 15 di settembre alle ore 19 ci sarà Una donna fantasiosa, un monologo, che in pratica è il primo, quello che già è stato rappresentato a New York, dove ha avuto molto successo, dove ha avuto una grande rassegna stampa, e per cui insomma il Teatro Keyros, la Sabine Svantellicci, insomma, ha avuto questa accortezza. Comunque mi hanno voluto dare l'onore di aprire questo bellissimo festival dedicato a Daniele Vallazzi, e quindi che dire, sono molto contenta. Tu lo interpreti, lo hai scritto insieme a Stefano Maria Palmitessa che lo dirige. Ecco, come avete lavorato insieme alla messa in scena? Allora, io ho scritto tutti gli aneddoti, perché in tutti e due i testi comunque sono, diciamo, tratti dalla mia vita reale, quindi il monologo è la mia vita prima di arrivare negli USA, il manattologo è la mia vita da quando, diciamo, ho iniziato a vivere a New York. Quindi io ho buttato giù tutti gli eventi che mi erano, diciamo, successi. La mia vita è molto rocambolesca, molto brillante, insomma, non mi annoio, diciamo così. Allora, inoltrato, diciamo, ho dato a Stefano tutti gli aneddoti, e poi lui, da grande scrittore qual è, insomma, ha scritto il testo drammaturgico, e quindi poi io sono l'unica interprete, perché appunto sono due monologhi, e questo è quanto. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Teatro Studio Keyros, all'interno del Festival Teatro che non c'era, venerdì 13 settembre 2019, in prima nazionale, Una donna fantasiosa, un manattologo, interpretato da Eleonora Micali. Eleonora, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo! Ciao ciao!